E tanti giornalisti illustri come Curto Martese, Filippo Facci, Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani. Tutti impegnati in un legittimo disegno politico comune che ci inquieta. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Matti, siamo tutti matti. Urliamoci, insultiamo da nevrosi, siamo affetti. Spariamo dei sorrisi, degli alibi perfetti. Dati dai trascorsi assai sospetti. Siamo tutti matti, fuori ogni misura. In fondo ogni promessa, l'incertezza e la paura. Fragili ed inetti, bugiardi trasformisti. Quindi secondo lei in questo momento il problema del movimento è per certi versi Beppe Grillo? Direi di sì, perché noi il lavoro lo stiamo facendo, stiamo cercando di, lavoriamo tantissimo e anche questo non viene percepito all'esterno. E invece di come dire, incoraggiarci, lui scrivendo questi post ci diciamo. Devo dirvi la verità, ascoltatori della Zanzara, voi che siete in taxi, voi che siete in autobus, voi che siete sulla tangenziale, voi che siete a casa, a me di questa questione dello streaming, del processo alla senatrice Gambaro, non me ne frega un cazzo. Purtroppo ne devo parlare di queste follie, devo parlare di questi gargarismi, devo parlare di queste scoregge, di questi rutti, di queste frattaglie che avvengono all'interno del Movimento 5 Stelle, che doveva farsi vedere in Parlamento per qualcos'altro, e invece parlano di scontrini, dell'intervista di una senatrice, gargarismi interni ridicoli. Sentite la follia, la senatrice Blundo, facciamo una telefonata a Beppe per fargli le scuse in diretta e ci ricompattiamo. Un'altra senatrice, la Bencini, avere un'opinione personale illegale e avanzare critiche non è previsto dal regolamento? Poi la Gambaro, la diretta interessata, che dice ho chiamato Beppe ma non mi ha risposto. Un altro che si chiama Maurizio Romani, che è un senatore, dice voglio le scuse di Nuti, non di Gambaro. Mi chiedo se non sia peggio l'intervista di Nuti dove dice che Gambaro si deve dimettere e chi vota contro è fuori. Ma la gente che li ha votati, compresi io ovviamente, ci capisce di queste cose oppure pensa che sia tutta una follia, che sono pazzi? Un altro, il senatore Nicola Morra, che è diventato capogruppo, dice se ho sbagliato chiedo il giudizio della rete. Ma quale rete? Quale giudizio di chi? Siamo tutti matti, proprio tutti. Un altro, un deputato, Manlio Di Stefano, uno durissimo nei confronti della Gambaro, che dice la Gambaro è una miracolata che si crede Che Guevara. Poi ancora la Gambaro interviene, il processo dovrebbe iniziare tra poco, anzi forse è già in corso, uno streaming. Gambaro a Crimi. Vorrei sapere da Vito Crimi, l'ex capogruppo al Senato, perché è stato pubblicato sul blog un mio SMS che ti ho mandato personalmente. Il mio rapporto di fiducia nei tuoi confronti non c'è più. Cioè siamo al punto che uno pubblica un SMS sul profilo Facebook e poi si discute di questo. E sempre Crimi dice non possiamo sottrarci a giudizio della rete su Gambaro. Cioè questo, che è stato il capogruppo del Senato, dice che l'espulsione o meno di una senatrice che Grillo vuole fortissimamente deve essere deciso dalla fantomatica rete. Siamo tutti matti. Oh, circola anche un video da parte di fantomatici supporter di Grillo che si presentano con un cappuccio in testa, e a qualcuno ricordano gli anonimi, Anonymous, vabbè lasciamo perdere i nomi, i quali dicono ai dissidenti siete peggio di Berlusconi, farete la fine dei ratti di fogna. Siete peggio di Berlusconi, Berlusconi si sapeva che era lì a farsi i cazzi suoi e il voto a lui non lo abbiamo dato, mentre voi avete preso il nostro voto stando ad un patto ben preciso. Occhio! Non penserete di tradire l'elettorato e di farla franca. Vi costringeremo a vivere di nascosto come dei vigliacchi. Farete la fine dei ratti di fogna. Servi di Roma fuori! senza dubbi neri pensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti, servi di Roma fuori. Caro Parenzo, Maroni dice che adesso deve essere più cattivo, Maroni più, deve essere più cattivo. Padania bella e libera, guarda avanti. Ci sei? Io voglio continuare, continuerò finché serve a fare segretario federale, diventando più cattivo, questo mi è stato chiesto, per garantire l'unità del movimento. Poi volevo chiedere la giustificazione a Bossi. Fai vedere quanto è bello. Chi è eletto nelle istituzioni e oggi non viene a partecipare a una discussione così importante, o una valida giustificazione oppure non gliene frega granché della Lega. Nel senso, oggi c'è anche Bossi, che fa giustificazione a Bossi. Certo, per me sono tutti uguali. Servi di Roma fuori, senza dubbi neri pensamenti. E qualcuno anche tra i colonnelli di Maroni pensa all'espulsione di Bossi. Guardava. Ci sei o no? Non ho capito, sentivo rumore, Parenzo. Ma ci io sei? Ti sento benissimo, certo che sì, ci sono. Tu mi senti benissimo, certo. Oh, il ministro Kyenge dice che Genova è un esempio di meticciato in Italia, dopo aver detto che l'Italia è un paese meticcio, cosa che non risulta, cara signora Kyenge. Se uno può criticare senza essere razzista, sì, senza essere bollato come razzista. Allora, dire che l'Italia è un paese meticcio è una solenne stronzata, perché l'Italia non è un paese meticcio. I paesi meticci sono altri. E dunque anche dire Genova è un esempio di meticciato in Italia è una stupidaggine. Genova è una città fondamentale, un punto di riferimento, quindi che dimostra il meticciato, che dà un'idea appunto di questo mescolamento delle culture. Senza dubbi neri pensamenti. Oh, abbiamo già un ospite collegato, però voglio farvi sentire Vittorio Sgarbi, che dà del fascista Grillo non diverso da Alba Dorata. Senza dubbi neri pensamenti. Grillo è un fascista puro. Non è che sia sull'analisi. Sull'analisi no, sono anche d'accordo. No, no, ma voglio dire, è un contenitore di un malcontento. Sì, d'accordo, ma no, no, se non avete capito cosa intendo dire, non è che sia diverso da quelli che si chiamano Alba Dorata. È una cosa diversa, ma che sia un dittatore, lo prova il fatto che appena uno dice fuori, allora che poi sia un dittatore buono, li abbiamo già avuti. Sali Padania. E abbiamo con noi, caro Parenzo, chi ti ho invitato oggi, chi ti ho invitato? Non lo sai chi ti ho invitato. Chi c'è lì? Giovanni Sartori, buonasera. Buonasera, ora l'ho scoperto. Come sta? Ma, e dirò. Beh, come? Bene, male, come sta? Benino, una cosa giusta. Insomma. Ah, benino, benino. Io non benino. Sono un esagerato. Senta una cosa, signor Sartori, ma lei oggi ha scritto un editoriale su Quelle della Sera che non è stato messo proprio in grande rilievo, è stato messo... No, no. Come mai? Ma questo è... temo che sia una scorrettezza del Corriere, del quale... chiederò conto. Ah, chiederà a De Bortoli del fatto che il suo editoriale non è stato messo in maniera adeguata. Lei... gli accordi sono che un mio pezzo lo mettono come editoriale, oppure mi avvisano che non lo mettono e io ho la facoltà di ritirarlo. Questa è l'intesa, mi pare anche giusta. Sì. Che ha governato i miei rapporti cos'è? 60 anni. Col Corriere. Con interruzioni, ma insomma sono il più vecchio collaboratore. Certo. Questa volta non mi hanno detto niente e mi hanno fatto quella tritaglia che mi ha indignato, perché insomma peggio di così non mi potevano sistemare, senza dirmi niente, perché l'avrei ritirato, per carità. Ah, lei se avesse saputo che il modo in cui l'hanno messo? Che me lo mettevano di sottospalla a metà. Sì. Un pezzettino, insomma, una cosa ridicola. Io avrei detto tante grazie, ma lo ritiro. Scusi un attimo, ma secondo lei c'è di fondo il fatto che era un articolo sulla Kyenge, o sbaglio? Sì, ebbene, perché così era intoccabile? No, assolutamente. Un articolo molto educato sul problema dell'integrazione, che una oculista non conosce per niente, poi che lei dà modo in ogni occasione di dimostrare che non lo conosce. Come se io mi chiedessero di scettare di chimica, lo farei male perché non me ne intendo, non c'è nulla di offensivo in questo. No, no, ma infatti io non ho assolutamente detto che è un articolo offensivo, anzi con me sfonda una porta aperta. Cioè, volevo capire se il motivo per cui quell'articolo là è stato messo dal Corriere della Sera in una posizione non particolarmente, o comunque fuori dai suoi accordi col Corriere, dipende dal fatto che si occupava del ministro Chieng. Questo non glielo so dire, ma lo accetterò io in questo momento... solo sull'Aventino. Ma lei potrebbe ritirare la collaborazione con Corriere della Sera per quello che è successo? Certo, certo. Cioè, se non le danno una... è stata una slealtà mai vista, insomma, l'accordo è preciso, dura da con quanti direttori e mi sembra anche un accordo giusto. Mi avvisano e io ho il diritto di ritirare, non ho mica grandi pretese. Comunque a me pare evidente che c'è una che non volevano che la sua posizione fosse interpretata come quella del Corriere della Sera sul ministro Chieng, insomma, mi pare evidente. Ma questo non è mai la posizione del Corriere della Sera, è notorio che io sono una delle voci del Corriere della Sera, ne ha tante altre, dico, io la mia, e se sono il più letto è per mio merito. No, no, certo. Ma questo ma lei... Corriere della Sera aveva uno stretto dovere, avvisarmi che non voleva l'articolo, che lo voleva pubblicare come l'ha pubblicato. E gli avrei detto che altre tante lo ritiro. Cioè, una maniera offensiva quella con cui è stato pubblicato. Ma senza dirmelo, sì. Parenzo? No, voglio capire, intanto il professor Sartori, saluto, massimo rispetto. Lei è già pronto per migrare? Su quale altro giornale le piacerebbe scrivere, professor Sartori? Ma senta, io ancora non ci ho pensato. Ho scritto sul Corriere con lunghe discontinuità, ma per 50-60 anni, quindi sono sempre stato un corrierista. Ora... Non è mai successo una cosa del genere? No, no, no, no. Perché vabbè, però non è sempre, che... mi hanno sempre avvertito, dice sì. Il direttore non lo metterebbe come editoriale. Io dico, va bene, lo metto, oppure dico, no, lo ritiro. Lo ritiro. Lei in questo caso l'avrebbe ritirato? Certo. Scusi un attimo, lei si può utilizzare secondo lei la parola negra per quello che riguarda una persona di colore, in questo caso il ministro Chieng, oppure uno molti ma lo ritengono un'offesa? Io siccome ho vissuto da 35 anni almeno negli Stati Uniti, lì non usa, lì non si dice nigger, si dice black, e quindi anch'io ho preso l'abitudine di dire nero. Però la parola negra non è un'offesa? Beh, è considerato un'offesa, anche se così sono un po' sciocchezze delle mode. Ma per esempio una ragazzina nera mi viene di dire una negretta, non una negretta. Sì, una negretta, ma, certo, un negretto oppure un negretto. Ma io ho l'abitudine dall'inglese di dire black, come dicono ora gli inglesi. Sì. E quindi dico nero. Allora, traffico, torniamo subito con Giovanni Sartori, che ha detto delle cose molto dure, ma è la sua opinione ed è trasparente, limpida sul ministro Chieng, non c'è nulla di offensivo, però la domanda è questa: si possono fare delle accuse nei confronti di un ministro senza essere accusati di razzismo? Secondo me sì, anche dicendo che è incompetente in quanto oculista. A tra poco. No, non siete seri per niente. Siamo qui, la zanzara di questa sera inizia con il professor Giovanni Sartori, 800240024, molto arrabbiato nei confronti del Corriere della Sera per come è stato trattato. Professor Sartori, ma il ministro Chieng conosce l'italiano, perché la parola meticcio, cioè, ha dipinto l'Italia... Lo conosce forse bene, ma non risulta da quello che dice, perché dice che gli italiani sono meticci. Ti ho detto, si compra un dizionario, sì. Qualsiasi si faccia prestare i soldi dal governo, a Dio santo, e scoprirà che meticcio vuol dire di etnia, di razza diversa. Sì, sì. Quindi è una stupidaggine. Cioè, l'Italia non è... lo sono, per esempio, molto. Sì, sì. Perché la conquista, i conquistatori non avevano donne e si sono mescolati con la popolazione originaria. Sì. Ma era il caso di fare ministro una persona solamente perché è un simbolo, una bandiera? Ma la cosa era è stata... No, questa è una sciocchezza assoluta. Il problema è gravissimo, è importante. decisa del futuro del paese, quindi fare la bella figura di prendere una nera, sì, per dire ecco, per l'integrazione deve essere una nera che se ne intende, e invece tutto quello che ha detto finora sono sciocchezze. Per esempio lo Jussoli, no? Sì, sugli Jussoli dico, dice che è gli Jussoli, tante grazie. Ora sono un po' smesse con le turbulenze nordafricane, sono un po' smessi i barconi, però? Ma se diamo gli Jussoli ci troviamo 20, 30 mila, 40 mila barconi all'anno, persone che arrivano con i barconi, dice una pacchia, ma è una stupidaggine, noi abbiamo gli Jussoli perché siamo già sovrappopolati, non abbiamo bisogno di attirare. Ecco professore, il fu inventato per attirare, sì, nel nuovo mondo. Sì. Lei lo sa che dicendo Parenzo, stai attento a questa cosa qua, dicendo che no, con lo Ius Soli, con l'introduzione dello Ius Soli, cioè chi nasce in Italia è italiano, dice il professor Sartori, arriverebbero 30-40 mila persone all'anno, sta utilizzando un linguaggio, il professor Sartori, secondo me correttissimo, che tra l'altro è lo stesso linguaggio che ha utilizzato il presidente del Senato Grasso, dicendo che ci sarebbe, no, un arrivo di puerpere in Italia, certo. E che però uno dice un linguaggio razzista perché lo utilizzano anche i leghisti. La mia risposta è: chi se ne frega, quando uno pensa una cosa appunto e basta, anche se la condivide, che ne so, Hitler, è la stessa cosa, Sartori, o no? Ma senta, questa maniera di ragionare con le ingiurie, uno dice una cosa è un razzista, io non sono razzista, io dico esattamente quello che penso, conosco il problema, ho scritto un libro su questo, ho scritto sul Corriere e dico cose che ritengo esatte. Ma la poligamia... Non me ne importa nulla, però... che poi mi appiccicano questi... Sono sempre state le differenze e la diffamazione. Parenzo, che c'è? No, voglio dire al professor Sartori... Tu che sei il simbolo, tu che sei il simbolo del politicamente corretto, no? Che sì, qualsiasi cosa voglio... dice il ministro Chieng, no, in quanto nera, per te è legge, no, per te è legge, no, assoluta. No, se uno dice una stupidaggine, una stupidaggine. Però dico al professor Sartori, con grandissima umiltà, di fronte al professore che mi inchino, ma quei paesi che hanno lo Ius Soli, non sono gli ultimi stronzi, professore, cioè sono paesi... Ma sono diversi dall'Italia, ma sono paesi diversi dall'Italia. Ma l'ho detto, originariamente è nato per i paesi sottopopolati, poi ora la moda è la sinistra che non sa che cos'è, quindi cerca nuovi slogan, sì, è stato applicato anche in Europa, ma la cosa è stupida. E questo non me ne importa, mi importa però che in Italia non può andare. Scusi, professore, ma ci sarebbe anche un arrivo di partorienti in Italia? Probabile. Una specie di invasione, no? Ma insomma anche se non ci sarà, ora si è interrotto per via delle turbulenze nordafricane, ma quando le navi con dei profughi si rimetteranno a, sì, navigare perché protette organizzate, noi ci aspetteremo altro che 1000, ci aspetteremo 30-40-50 mila immigrati almeno all'anno, che non possiamo sopportare. Quindi li attiriamo per fare che cosa? Per buttare sulla strada? Scusi un attimo, ma la Chieng ha detto anche che non ha usato delle parole dure nei confronti della poligamia. Secondo lei è normale questo? Ma questo noi non l'abbiamo. No, vabbè. Se lei vuole la poligamia fuori, dica, se la vede con la Chiesa soprattutto. No, ma non è, sicuramente non la vuole la poligamia, però insomma ma 30... non lo so, ma non, poverina, non ha detto una cosa giusta finora, e sarebbe come se io mi arrogassi di scrivere trattati di chimica, direi una stupidaggine dietro l'altra perché non la conosco la Senta chimica. Ma è indegna di fare il ministro, secondo lei? È indegna? Di fare il ministro? No, la facciano ministro di oculistica. Dunque è indegna di fare il ministro dell'integrazione? Dell'integrazione no, perché ne sa meno del mio fornaio, passino dell'angolo. Grazie. Poi, professore, tutto quello che ha detto è stupido e sbagliato finora, quindi potrebbe fare il ministro dell'integrazione, che è il più difficile dei problemi e del mondo contemporaneo. Grazie, a presto. Pubblicità. Grazie. Radio 24 è una radio che reputo molto seria. Il programma della serata è una cosa che spesso mi disgusta. Non tanto lei, il signor Paparanzo, non so come si chiama, non degno di una trasmissione come questa che è molto professionale, molto seria, molto qualificata. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo a piedi, ma lei gira sempre intorno a me. E balli un sandwich, e balli un sandwich. Ecco, io mi sto stufando, ma mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando seriamente, perché finché la guerra me la fanno i giornali, le televisioni, i nemici, quelli veri, va bene. Ma io guerre dentro non ne voglio più. Se c'è qualcuno che reputa che io non sia democratico, prende e va fuori dalle palle. Se ne va dal movimento e se ne andrà dal movimento. Allora, queste robe qui non sono state pronunciate da Grillo in questi giorni, è una roba di dicembre scorso. Questa frase di Grillo è di dicembre scorso. Dimmi. Subito sapere una cosa, questo signor Grillo che si atteggia, tu ricordi un signore che si chiamava Palmiro Togliatti, no? Palmiro Togliatti parlò di Pidocchi riferendosi a due dissidenti del Partito Comunista. Allora, però Togliatti è Togliatti, perché Togliatti è il migliore. Grillo è un coglione. Ma per adesso non ha mai detto Pidocchi, eh. Allora, no, non dico Grillo in quanto Grillo, dico Grillo quanto il movimento. Cioè, se io vado a leggere adesso su internet, sulla re, la famosa rete, sulla rete, se vado a leggere sulla rete gli insulti che hanno riservato a questi dissidenti, io le chiamo queste eroine, questa donna straordinaria, questa donna è... Ma che eroine? È la Giovanna d'Arco del... Ma quale Giovanna d'Arco? La vera domanda è questa. È eroica! Ma è quale una eroica? Di una potenza straordinaria. Ma quale eroica? Sta portando democrazia in un movimento orwelliano di un puparo del XXI secolo, con questa idea della rete, questo dittatore telematico. Senti, che amico tu mio, hai votato, che lascia tu hai perdere, quello potrà anche essere un dittatore telematico. Questa gente in Parlamento, ah, tu ecco. Sei il primo che devi vergognare. Se io fossi a Milano in questo momento e fossi nei pressi del Sole 24 Ore, ma io verrei a farti la posta lì davanti. E per fare cosa? Io verrei a chiederti conto, io ti aspetterei. Pensa alle 21... te che ha ragione anche Dario Fo quando dice che il Movimento 5 Stelle senza Grillo praticamente non esiste. Senti. Potrebbe esistere il Movimento 5 Stelle senza Grillo? Ma credo di no, perché l'animo è l'idea, è l'invenzione, è soltanto che lui lo sa benissimo, deve creare... La realtà è questa, che Grillo lo conoscevano anche prima, adesso però dicono di essere entrati nelle istituzioni, dunque Grillo deve avere un linguaggio diverso, eccetera, ma senza quel linguaggio lì, questi qua, Gambaro, Blundo, come diavolo si chiamano, queste comparse che adesso vagano nei saloni comparse? Di Montecitorio e del Senato, vagano queste comparse, ma quale storia? Titoli. La Gambaro sta scrivendo la storia di una nuova epifania del movimento. Titoli del TG3, titoli. È questo che non capisci. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Berlusconi, l'Italia sfora il patto di stabilità, tanto non ci cacciano, inammissibile non trovare i soldi per bloccare l'aumento IVA. Immediata replica dell'Unione Europea, il deficit deve restare sotto il 3% del governo, la nostra posizione non cambia. Saccomanni, misure fiscali ragionevoli per non aumentare l'IVA, continuare la lotta all'evasione, ma occhio a chi è in difficoltà. I parlamentari 5 Stelle processano la Gambaro per le critiche a Grillo, io non mollo, dice la dissidente, Crimi deciderà la rete. Al G8 primo incontro Letta Obama, i leader europei, il presidente americano promette l'obiettivo è più lavoro per i giovani. Tensione alle stelle in Turchia, oggi sciopero dei sindacati, Erdogan minaccia l'uso dell'esercito, ferito fotoreporter italiano. Raffaella Carrà compie 70 anni, prima donna della televisione italiana, sempre con il sorriso, e Pippo Baudo, ospite al TG3, presenta il suo nuovo programma. Zanzara! C'è un scusate, ho sentito bene. Pippo Baudo, ospite al TG3, presenta il suo nuovo programma. Pippo Baudo. Beh, Baudo sarà ospite anche da me, per quello sì, vabbè, di questo me ne, ce ne fottiamo. Il problema è un altro. Fatto Pippo Baudo, Pippo Baudo presenta il suo nuovo programma. Bene, vabbè. No, ho detto tutto, no, basta, c'è vabbè, solo da dire questo. Adesso ce l'hai anche con Pippo Baudo. No, non ce l'ho con Pippo Baudo. Adesso voti adesso non lo No, ma devi stare tranquillo però, perché ti ho toccato una cosa, per cui devi stare tranquillo, sei in conflitto di interesse, dunque non parlare. Il problema fondamentale è che il titolo era surreale, però se mi spingi su questo terreno combatto tranquillamente, ma il titolo mi è apparso surreale, no? Cioè, nuovo programma presentato da Pippo Baudo. Vabbè, infatti è un nuovo programma, dov'è? No, la cosa no, surreale? Ma se a te non sembra surreale. Ah, insomma, per l'età di Baudo. No, ma in generale, no? Cioè, sei diventato anche un rottamatore dei presentatori che funzionano. Vabbè, tu non puoi parlare perché sei in conflitto di interessi. No, però sei interessante, perché tu, voglio dire, che sono tanti anni che giustamente continui a fare la zanzara, perché è un programma di successo. Ora rompi i coglioni, cioè voti Grillo. Mi fate sentire vabbè. Sgarbi sulle rotatorie, hai per favore, invece voti di uno di uno che è in conflitto di interessi, per favore. Fatemi sentire Sgarbi. In compenso, tanto perché i soldi non mancano, l'Italia è piena di rotatorie con milioni spesi e alla Spezia, chiudo con questo, Dario Vergassola, come quelli del giornale da ogni parte politica, vedono questo progetto di merda che il sindaco da lunedì vuole stanziare per fare l'artista Buren, che è un incapace in Francia come in Italia, deve fare questi archi di cemento armato colorati distruggendo un viale con gli alberi alla Spezia. Milioni spesi per nulla invece di riparare la città di La Spezia. Allora. I soldi ci sono e li buttano in questo modo. Vergogna, sindaco della Spezia! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Allora, Sgarbi contro le rotatorie, questo da tempo ormai, considera le rotatorie una sorta di iattura, di iattura estetica, di iattura... È questo che non capivo, cioè, mi spiegami bene, scusami, forse ero distratto, cioè la battaglia del professor Sgarbi, sì. se lo chiami glielo dico in faccia, perché sì. Sgarbi adesso è passato dalla battaglia sulla giustizia alle rotatorie delle strade, quando si occuperà dei tombini? Senti questa cosa, chiamano uno stronzo quando per degli... si occupa dei tombini e delle foglie che d'inverno cadono dagli alberi e bloccano il fluido, il passaggio dell'acqua dei tombini. Quando si occupa di questo? Senti cosa pensa di quelli che costruiscono gli archi, forse gli stessi che devono costruire la rotatoria alla Spezia, non so. Milioni di euro per chiamare uno stronzo francese adesso, a fare una puttanata. Senza... Questa è la verità. Allora, questa è la verità. Io... Ma domanda lui! Vittorio. Domanda lui io cosa mi... hanno fatto a Isernia! A Isernia con i soldi io... del 150esimo! Una merda di teatro! 50 milioni di euro da sodomizzarli! Allora, io altro mi dissocio! Che. Allora i soldi mi ci sono! Dalle parole, li buttano! Vittorio. Li buttano! Vittorio. Va a finire che ha ragione Vittorione su questo, eh. Non ho capito il problema. Ha ragione Vittorio su questo, te lo dico io. Cioè? Comunque, guarda, io sulle questioni che riguardano l'estetica, le rotatorie, cosa costruire e cosa meno, mi fido di Sgarbi. Abbi pazienza. Sì. Cioè, posso fidarmi più di Sgarbi o di te? No, spiegami. No, ma io non mi fido, ma io non sto dando giudizio. Allora, qual è il problema? Perché non si dovrebbe occupare di rotatorie? Perché non ridere, si dovrebbe... Voglio dire, io non mi occupo di arredo urbano, perché di questo si tratta. Dopodiché mi fa sorridere che Vittorio interviene su tutto, anche sulle rotatorie, dico, a quando interverrà sui tombini ad esempio, e sui cassonetti, che sono bruttissimi, che cassonetti di plastica ad esempio, perché non fanno dei bei cassonetti? Scusa, ma quello è uno che guarda Liberty. Il paesaggio italiano, le città italiane, e giudica come vengono acconciate. Qual è il problema? No, va benissimo. Cioè, quando parla di politica e di rubi, per te non va bene perché non c'hai il codice penale in mano e non è come Ingroia, non è come la Boccassini. No, io non è un mozzorecchi. Che... Quando no. parla di arredo urbano, non è possibile che parli di arredo urbano, ma di che deve parlare? Tutt'altro, lì non ho mai criticato critico le sue opinioni, ma non dico che non può, ma stiamo scherzando. Va bene, Alessandro da Napoli, buonasera. Alessandro da Napoli. Buonasera. Io volevo obiettare l'introduzione della sua trasmissione su Beppe Grillo, che ho sentito praticamente un po' di questione personale tra lei e Beppe Grillo. Ma non c'è nessuna questione personale, io ho delle opinioni, a me ne frega, io non ho rapporti con nessuno, guardi, certamente non ho rapporti con Grillo. E allora? Sicuramente, però lei ha detto tanto non mi frega niente di questo, di quell'altro, però... poi è smerdato completamente. Io ho notato questo e ho chiamato proprio perché mi è venuto alla mente quel richiamo, quel, per carità, erano stronzate quello che disse Peppe Grillo su di lei tempo fa. Però ci sento un po' di questione di personale. Ma non c'è nulla di personale, grazie. Francesco da Roma, buonasera. Francesco. Francesco. Buonasera Luciani, vada. Buonasera anche a Parenzo e agli ascoltatori. Dunque io chiamo per dire la mia su questa questione dell'espulsione della Gambaro. Allora? Cioè, a me più che altro, non discuto tanto l'espulsione o meno, ma quanto proprio andare a votare per espellerla. Nel senso che mi sembra che 5 Stelle e Grillo si dimenticano che questi 163 che si trovano lì rappresentano 9 milioni di voti che hanno avuti. Per cui ognuno di quelli rappresenta 55.000 persone che hanno votato, altro che i 44.000 che votano sulla rete, insomma. E quindi credo che le opinioni, sicuramente in quei 9 milioni ci stanno pure persone che la pensano come la Gambaro. E io non lo so, non quanti perché non dovrebbero avere voce anche queste persone, sì, ma va benissimo, dato che Francesco... il 5 Stelle dice sì. Che loro rappresentano i cittadini. I cittadini, ci sono anche dei cittadini che stanno d'accordo con la Gambaro, quindi credo che anche la Gambaro abbia diritto di dire la sua e di restare tranquillamente nel movimento. Se poi la vogliono mandare via è un altro discorso. A me mi fa impazzire l'ipocrisia, di questi deputati e senatori che scoprono adesso che criticare Grillo significa essere cacciati dal Movimento 5 Stelle. È una cosa ridicola, lo sapevano fin dall'inizio che era così, perché era già successo con la Salsi, con Favia, eccetera eccetera. Sono persone che sapevano fin dall'inizio che non ti puoi permettere di alzare un giorno e dire Grillo ha sbagliato tutto, perché da quel momento in poi vieni cacciato. E siccome queste persone invece adesso pensano di stare in Parlamento, dunque avere un ruolo diverso rispetto a quello che avevano prima, è lì la vera ipocrisia. Non è Grillo fa quello che ha sempre fatto, cioè cercare di guidare col pugno di ferro i gruppi parlamentari e quelli che ha mandato alla Camera e al Senato. Borsa. Vergogna! Vergogna! Vergogna! Vergogna! Zanza, zanza, zanzare. Io trovo in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanza, zanza, zanzare. Una parola d'uma dirà te più lista e ci interessa non dormire. Anche i suoi colleghi europei l'hanno buttato fuori al partito. Non è un collega europeo, è un signore dell'UKIP che viene inseguito a calci in culo, Farage. Farage, dai nazionalisti scozzesi, che fanno molto bene. E se andassi a Edimburgo e vedessi un centralista britannico come il signor Farage che viene a rompere i coglioni, sarei il primo a dargli non due ma quattro calci nel culo ben meritati. Il sempre moderato Borghezio così si esprime nei confronti di un deputato europeo britannico che è stato quello che sostanzialmente l'ha fatto cacciare dal gruppo del Parlamento europeo. Nostro amico carissimo. Però ti voglio sottolineare che per fortuna la vecchiaia ogni tanto, come nel caso di Giovanni Sartori, non dico che porta consiglio, sarà il fatto che sta con una di 40 anni più giovane, di 50 anni più giovane, ma non è questo il punto. È un dato che forse lo aiuta a rimanere giovane. No, però... No, lei... voglio dire, perché non te la sei presa con lui quando ha detto la sacrosanta verità, cioè che in Italia dare la cittadinanza a chi nasce in Italia porterebbe automaticamente, poi uno può dire va benissimo, non la me frega niente, una cosa non vera, stai zitto un attimo, cioè dare la cittadinanza a chi nasce, il famoso ius soli, tanto per farci capire dai tassisti, che per carità ne sanno più di noi, e da tutti quelli che sono in ascolto in questo momento che non sanno il significato della parola ius soli, che significa sostanzialmente che chi nasce in Italia diventa italiano. C'è sarebbe una tragedia. Sei veramente snob, sei. No, sarebbe no, al sei contrario, snob, sei tu che sei snob. Sei snob e come dire, è anche proprio sine nobilitate, vuol dire snob. Ma lascia perdere queste cose. Sto dicendo perché pensi che la gente non sappia. Invece la gente sa. E la gente sa perfettamente che non è vero che lo ius soli porterebbe orde di migranti. Assolutamente sì, è così. Perché già oggi ci sono migranti che arrivano. È così. E immaginare, qui mi fermo, chiudo e ti saluto, e immaginare, ti saluto per modo di dire perché rimango qui a romperti le scatole, ma immaginare che una volta che ci fosse questa legge d'Italia, gli immigrati cominciano a dire venite, venite, è così, venite tutti, è così. È una stupidaggine, stupidaggine. Ha parlato il nuovo grande esperto di migrazioni, il signor David Parenzo, il nuovo esperto di migrazioni. Bruno da Roma, Bruno da Roma, stai zitto. Quindi i paesi che hanno lo ius soli sono tutti idioti, ho capito. Non hai capito. Ma lo pagate voi per stare in trasmissione? Lo paghiamo, sì, lo paghiamo, lo paghiamo. Comunque poi Sartori tanto ha scritto in prima pagina. Bruno da Roma, Bruno. Si lamenta di che cosa? Che non è delle tue colonnine di sinistra. Stai zitto? Ok, hai fatto il teatrino, stai zitto. Ecco, bravo Riccardo, mettila a posto. Bruno da Roma. Sono qui. Eccoci, vada. Oh, niente, io volevo chiamare questa storia di Ussoli e compagnia bella. Mi sembra un non issue, non sì, però parli come mangia. Una non questione. Ecco, non issue, lo dice, lo dice a Focus Economia, anche se non ci sono ascoltatori. Dunque, il problema non è lo Ussoli, gli immigrati che arrivano e compagnia bella. In Italia il problema è non dare la cittadinanza, ma togliere la cittadinanza. A chi? A chi, di grazia? Tutto là. A chi? Come a chi? Si fa? Come si fa, come non si fa? I greci lo facevano con un coccetto, i romani lo facevano con il bando. E mi... non c'è, è cioè lei dice agli indegni... La cittadinanza va meritata nella vita, punto. Questo, vabbè, questo dipende, ci sono cittadini indegni che restano cittadini. Dipende, tutto relativo, ma questo è il discorso, non bisogna preoccuparsi di quelli che arrivano, benvenuti, ma quelli che se ne dovrebbero andare. Ah, perché secondo lei, caro, carissimo genio che hai telefonato non alle 19:39... lei è un genio, io no. Che appunto, caro genio che chiami alle 19:39 per parlare con noi, perché quella signora della Lega di cui vi abbiamo raccontato venerdì, quella di Padova, del consiglio di quartiere, che ha scritto quella vergogna, secondo lei è più degna di essere cittadina italiana di qualsiasi migrante che lavora? No, quella è il numero uno ad andare via. Quella deve guarda che cacciata, sta dicendo la stessa Italia. Cosa che dici tu, genio. Appunto. Lo dico io, genio, come si pare. Vabbè, in ogni caso, gli Ussoli, io sono stato 14 anni in Inghilterra, ho avuto due figli in Inghilterra, sono cittadini, no, non sono, potrebbero essere cittadini britannici, e i loro figli possono, i nipotini per giunta, possono essere cittadini britannici. Ma quella è l'Unione Europea, ma è l'Unione Europea, è diverso, grazie. No, Paolo... in Inghilterra è così. Paolo da Venezia, sì, ho capito, lei dice anche con gli altri. Paolo, dica. Buonasera, buonasera. Vada. Allora, io vorrei risponderle in merito alla domanda che lei si pone sul fatto se sia offensivo o meno utilizzare l'appellativo di negro per una persona di colore. Sì. Sostanzialmente io credo che non importi tanto l'etimologia della parola. Ma bisogna vedere come uno lo dice, se dice sporco negro oppure negro di merda è evidente che è offensivo. Se uno dice quello è negro, se uno dice quello è negro, non necessariamente è un'offesa, a me non mi sembra, o no? Ma io credo che come in quanto io sono una persona di colore, credo che questa giudicare l'offesa sia alle persone di colore, a chi riceve l'appellativo. Certo. In quanto persona di colore io ad esempio... Ma non è vero, ma chi l'ha detto che deve giudicarlo lei? Scusi Paolo, se io la chiamo negro, lei è negro, glielo dico in modo normale, non capisco... Ma come è normale? È normale, cioè non glielo dico in modo offensivo. Non è normale. La normalità, per il semplice fatto che nel linguaggio comune è sempre stato utilizzato come una parola... Guardi, io non la uso, io non lo uso questo termine, allora dico una persona di colore o nera. Vuol dire che anche tu hai anche tu, come dire, un minimo di educazione, un minimo. Non c'entra l'educazione, io sono convinto che se uno invece di invece per un modo perché è abituato così, perché gli viene così, dice Paolo, così. In questo caso Paolo è negro, se dice Paolo è negro, lei è lingua italiana, è considerato ma perché sei diventato anche linguista o esperto di lingua italiana? Detto, qui c'è una persona di colore Bari, che c'ha... anche il camionista di Bari lo sa che il termine il negro... camionista di Bari, amico mio, dice Paolo è negro, ma lo dice perché è abituato a dire negro, ma non lo dice perché vuole insultarlo, lo dice allora, perché è abituato così. La parola negro la usavano il Petrarca, l'Ariosto, il Carducci. Vabbè. Un conto esatto, è quello che sostengo anch'io. Appunto. Nel linguaggio comune ormai è una connotazione negativa. Esatto. Comunque, guardi Paolo, no, non c'è comunque, se io non c'è comunque, stai non tranquillo. Non puoi liquidare tutto con comunque, no? È considerato dispregiativo. È inutile che dici comunque, poi senti, mandi traffico. Senti, padrone del politicamente corretto, se io, se mi venisse a dire a Paolo lei è una persona, lei è un negro, non credo che Paolo la prenderebbe male. Paolo, giusto? Se un mio amico mi dice sei proprio un negro, scherzando, non me la prendo. Vabbè, se una appunto. Persona con cui sto lavorando in quel momento mi dice negro, gli dico senta, se ne va da quel paese. Sì, vabbè, perché glielo dice perché magari perché la vuole offendere in un contesto offensivo, ma se uno dice l'italiano è così variopinto, è così. Vabbè, Paolo, mi sembra che però stiamo parlando del sesso degli angeli. Grazie, ci siamo intesi. Fabrizio da Genova, buonasera. A Cruscià, ascolta un attimo. Sì. Sì, ma sì, prima di tutto per piacere togli il coso. Applauso per Parenzo. Sì, può fare l'applauso che vuole, basta che non mette più il viva voce. Non ce l'ho viva voce. Allora vada. Ecco, un applauso per la prima puntata di Parenzo. Vabbè, non ce ne frega niente qui alla Zanzara. Bravo, poi. Infatti, è stata orribile. E volevo dirgli che grazie, è meglio se non fa quelle trasmissioni. Seconda cosa, volevo dirti grazie, che ci hanno rotto il cazzo tutti quelli che chiamano, che dicono il movimento di qua e il movimento di là. Anche negli altri partiti succedono le stesse cose, se ne dicono di cotte e di crude. Esatto. Come dici te, la politica è sangue e merda, solo che non vengono fuori. Non vengono fuori, non le ma non è vero che non vengono fuori, non è vero che ma non vengono fuori. Sì, no, ma si sono scannati, sì, si scannano le PD e il PDL, su, dai. Ovviamente sono sempre sotto la lente di ingrandimento, però non sono cose di cui c'è da strapparsi i capelli, che cazzo ce ne frega. E infatti a me non me ne può fregare meno. Una regolata. Questo qui è 20 anni che dice le stesse cose, lo vuole capire la gente. Non è che 20 anni, se tu guardi uno spettacolo di Beppe di 20 anni fa, sì, diceva le stesse cose. E allora veramente sfasciava i computer 20 anni fa, cioè per cui sfasciava, vabbè, ma in alcuni casi diceva le stesse cose, in altri no, ma insomma dipende infatti, anche lì. Infatti, si può cambiare idea, si può comunque ricredere, però non è che ha mai detto qualcosa di buono della politica, o sbaglio? Ma non lo so, no, probabilmente no. Ma io guarda, no, te lo dico io che li ho visti tutti. Vabbè, allora? Allora? E allora basta, ci hanno rotto i coglioni. Ma basta, chi? Ma voi tutti quanti, noi, giornalisti e non giornalisti, ma non te, perché te fai satira, che me frega. Ma io dico quei giornalisti veri, che ci hanno rotto i coglioni, che non parlino più di ste cose. Perché non sono quelli del 5 Stelle che vanno ai giornalisti a dire, oh, guarda che sta succedendo. Sono loro che sentono una parola e ci fanno sopra un discorso che ci hanno rotto le palle. Senta, i giornalisti che vanno dietro ai politici per strappare dichiarazioni, le sintesi dei giornalisti fanno che danno dei lavoro, d'accordo. Ci sono sempre stati e sempre ci saranno, per sì, cui Grillini, elettori dei Grillini, Grillo di qui. Sì, ma ho capito, Fabrizio, mettetevi l'anima in pace. Grazie. Giovanni da Verona, buonasera. Ciao Giuseppe. Dica. Ciao. Volevo dargli del mona a Parenzo, volevo dargli del mona. In che senso? Perché In che senso? Ti do ragione a te, che la signora che vogliono espellere la sapeva come si comportava Grillo. È inutile che adesso che è andata dentro nel minestrone voglia rimanere perché c'è da mangiare. Non so se il motivo è perché non c'è perché vuole continuare a mangiare oppure vuole la diaria, non credo in questo caso. Credo che tutti i deputati e senatori del 5 Stelle sapevano benissimo come era fatto Grillo, che le critiche non erano ammissibili. Non si possono svegliare adesso e diventare, come dice Parenzo, che non capisce nulla, i campioni della democrazia, o i campioni, la Giovanna d'Arco, stanno facendo un servizio alla democrazia, perché sapevano fin dall'inizio, hanno accettato il linguaggio e i modi di fare di Grillo sin dall'inizio. Adesso invece, siccome il consenso cala, loro pensano di dare la colpa a Grillo, che è lo stesso che attraverso le stesse parole li ha portati alla Camera e al Senato, attraverso le stesse parole di violenza, le stesse parole di attacco, di violenza non lo dico in senso negativo, dal punto di vista verbale, per cui adesso su che cosa si ribellano? Si ribellano su quello che c'era prima, ma su quello che c'era prima è la stessa cosa, lo sapevano sin dall'inizio quello che voleva Grillo. Vabbè, non è la stessa cosa. Well, now, little mosquito, there must be. Well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here. Beh, dalla bocca del professor Sartori abbiamo capito circa un'ora fa che potrebbe addirittura abbandonare la collaborazione. Certo, alla sua vetusta età non sarebbe una sorpresa, col Corriere della Sera, perché l'hanno trattato malissimo dopo l'articolo sulla Chieng. E devo dire che in questo caso Sartori c'ha ragione. Ma scusa un attimo, ma è intoccabile o no la Chieng? Non è che può essere intoccabile. Comunque, è con noi Daniela Santanchè, buonasera. Buonasera a lei e a tutti. Come sta? Come sta? Bene, sempre bene, si guarda avanti. Senta, ma ha parlato col suo amico Briatore? In che senso? No, perché insomma, pare che si possa iscrivere al Partito Democratico, l'ha letto. Lo smentisco nella maniera più categorica. Cioè, non si iscriverà mai al Partito Democratico? Non si iscriverà mai al Partito Democratico. Beh, qui dice che per Renzi sarebbe disposto anche ad iscriversi per fare un torto a Bersani. Ma questa è una manipolazione. Ma che manipolazione? Bravissimo a curare la sua comunicazione. Ma è un'intervista di Briatore. Sì, sì, ma con Briatore ci parlo tutti i giorni, guardi, lo escludo categoricamente. Impossibile. Vuole salutare innanzitutto Parenzo, che è un po' di tempo che... Mi manca un po' Parenzo. Come stai, Danielina? Bene, mancava la zanzara. È un po'. È un con po'... Salute, tutto bene? Come sta il direttore? Sta benissimo, in forma smagliante. D'altra parte, io sono la migliore delle beauty farm. Beh, questo è stupendo. Questo è stupendo. Questo è un pezzo di radio meraviglioso. Cioè, Santa anche come la beauty farm. No, sono meglio. No, meglio di una beauty farm. Cioè, meglio di una rimette beauty in sesto chiunque. Cioè, diciamo la verità. Poi, cioè, lei è un idromassaggio vivente, sostanzialmente. Beh, idromassaggio. No, ma insomma, non ma solo. Quello che ho detto, ma non è che tutto bisogna. Capisco che per lei spesso ci vogliono dei disegni per spiegare le cose, ma mi sembra di aver fatto una sintesi che è abbastanza. No, ma l'ha visto in televisione, più... signor Parenzo? L'ha visto all'opera in televisione, signor Parenzo? Onorevole Santanchè? Non l'ha visto all'opera, signor Parenzo? L'ho visto un sacco di volte all'opera. No, adesso. No, su Rai 3. Su Rai 3, l'ha visto o no? No, non l'ha visto. Non l'ho visto. Beh. Non ho molto tempo per la televisione in questo momento. Beh, adesso lei è sempre tre, appunto perché ci sta sempre per la televisione. No, io veramente non come ha molto tempo di vederla. Eh no, e di starci, preferisco sì, farla. Ecco, no, però c'è una cosa da dire che io trovo... Noi siamo, io sono la donna del fare, vi ricordate, ecco, però, la Cortellesi. Secondo me, scusate, c'è una verità assoluta. Secondo me quest'anno è stata la donna più presente, per esempio, una delle donne più presenti da Santoro. Allora, Santoro non è uno stupido, è tutt'altro, no? Cioè non è che la invita per caso. Cioè, secondo lei come mai mi invita Santoro? Secondo me perché vede la curvina, sa quella curvina che vede nell'ascolto? Pensavo le altre curve, sa, no. Quando parlate voi no. Maschi penso no, a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, invece no. Lei è serio. No, da questo punto di vista, io no, davvero, ha ragione, non sono affatto Cruciani. Serio da questo punto di vista, però se sulle curve non sono serio, sono attaccabilissimo sulle curve delle donne, però... Ah, sono questo ne so qualcosa, certo. Ma che ne sa lei? In che senso? Questo è interessante. Suoi, quanto mi piacerebbe. Ma che... Quanto no, no, mi fermo, piacerebbe Cruciani, prendere il telefonino di Cruciani e tac, in televisione una bella puntata, così brava. Dimostriamo come sono siete alleanza Parenzo Santanchè versus Cruciani. Meraviglioso, il brava. Telefonino di Cruciani brava. È scottante. No, ma il mio telefonino. No, ma se fermo un attimo, Cruciani, scusami. Che c'è secondo lei dentro il cellulare di Cruciani? Ah, ma guardi, io so delle cose, però non facendo il magistrato, non frequentando le procure, potrei raccontarle al Bar Sport. Perché sa, sono contraria ma sono a donne processare o anche gli stili di vita. Lo farei per divertimento, per divertismane, ecco. Perché sa, non vorrei mai che si pensasse che vorrei tornare indietro con il Grande Fratello o la vita degli altri. No, ma, però insomma, ci sono delle ogni cose uomo... Ogni uomo ha qualche segreto. Ci sono delle cose normalissime, diciamo. Ah, no, no, no, Cruciani, non la liquidi così. No, non è che soltanto certuni fanno cose eccezionali. Mi ma sembra che lei sia una strada meravigliosa. Ma ci sono delle cose, le assicuro, delle cose di assoluta normalità. Vabbè, cioè... poi ne parliamo io e lei. Ecco, appunto. No, no, appunto. Nel senso che sono cose normalissime. Cioè, vabbè, comunque, torniamo sulle curve. Che cosa le curve? Allora, Santoro la invita perché lei vede le curve e ascolti. Ma in televisione guardi che si invita quelli che fanno ascolto. Lei si rende conto. Conto che è una donna che viene invitata perché fa ascolto, sì. Ah, solo per questo, perché no, se fosse per scelte di altri, io in televisione non ci andrei mai. Vabbè, adesso non esageriamo, dai. Come no, non esageriamo, è così. Lo sa che andare in televisione vuol dire farsi odiare, farsi nemici all'interno del proprio partito, l'invidia, beh, no, solo. La gelosia. Per cui da quando lei è molto presente in televisione non la possono più vedere all'interno. Alcuni del PDL no, non la possono. A prescindere da sempre, a prescindere. Perché sa, sono uno di quei politici che parla come mangia e dice le cose che pensa. Ecco, per esempio mettiamo una persona, il signor Alfano. Alfano, secondo sì. Lei, quando va in televisione, le curve che fanno? No, guardi, secondo me Alfano ha molte caratteristiche positive, cioè una persona che è, però la televisione, se dovessi dire tra le virtù migliori non di Alfano, quella. Secondo me non è quella una non delle è quella. Migliori. Cioè in televisione fa piangere, diciamo la verità. No, questo fa non piangere, è assolutamente il mio pensiero, nella maniera più assoluta. Però se dovesse pensare a qualcuno poi da mandare... Poi 100 volte più bravo di me a fare altre cose. Se però uno deve pensare a mandare qualcuno in televisione del PDL, a tutto pensa tranne che Alfano, o no? Ma guardi, non c'è nessuno che pensa, perché qua qualcuno pensa... Pensa che sì, forse in minoranza, voglio dire, ci sono dei gruppetti di pressione che preferiscono mandare uno piuttosto che un altro, e certamente io lì non ci sono e non ci sarei. Io vado in televisione perché lei Cruciani, che conosce bene i mezzi, sa bene che in televisione, come alla radio, come su qualsiasi mezzo, vanno le persone che bucano lo schermo, che fanno ascolto. Alfano non buca. Alfano non buca. Io non ho detto questo. Perché non mi fa, ma... perché poi vi conosco. Voi domani fate un'agenzia e sparate veleno. Noi spariamo veleno se lei spara veleno. Se lei non spara veleno. Ma io non sparo veleno. Io ho detto Alfano, che ha molte caratteristiche, tra la... Se dovessimo fare una graduatoria delle caratteristiche... Non è quella. Ma i voti ce li ha, per esempio? Ma sa, nessuno di noi sa se i voti. Noi siamo viziati. Abbiamo da i voti, Berlusconi, ce li prende Berlusconi. Abbiamo vinto la lotteria senza comprare il biglietto. Adesso però il biglietto bisognerà comprarlo. Bisognerà comprarlo. Biglietto. Almeno biglietto lo compreremo. Cioè, nel partito quelli che contano devono versare dei quattrini. Su, devono mettere i soldi. Il Consiglio dei Ministri ha deciso che si abolisce il finanziamento pubblico ai partiti, per cui ognuno di noi dovrà darsi da fare, perché guardi, che raccogliere i soldi vuol dire anche avere poi il consenso, perché chi ti dà un euro poi ti dal voto. Scusi un attimo, lei quanti soldi ha messo di suoi nel partito fino adesso? Di suoi, di suoi. Ma ogni campagna elettorale. Quanti ha speso in tutto? Pagata da sola. In tutto, quanto ha speso per la politica lei? Un tot. Vabbè, mi dia un'idea. Un tot. Che perché lei mi dice tutto, tiri fuori io un tutto, messaggino tutto. Che ha mandato oggi, subito, qualche donna. Subito, glielo dico subito, guardi. Sei una cosa bella ho mandato, sei una cosa bella. Bella. Pensavo le avesse scritto semplicemente tu. Aspetta, no, semplicemente tu. Poi aspetti. Per me che sei. Vabbè, no, no, in realtà non mando. Pensavo a quella roba lì. No. Allora, perché ho queste idee? Un milione di euro li ha spesi o no? Ma cosa dice Cruciani? Ma dai, ma nella fino vita adesso, si fino ma adesso. Non lo so, non ho fatto i conti, se vuole li facciamo, campagna per campagna, domani mi chiami e le do reso conto. Non lo so. Vabbè. Pensiamo che gli italiani devono avere nelle tasche 6 miliardi di euro nel giro di pochissimo. Vabbè, perché è se non discorso. Pagano l'IMU, non c'è l'aumento. Ma scusi, ma Zanonato vuole, ha detto che è inevitabile. Vabbè, torniamo subito. Ma Zanonato è il sabotatore di questo governo. Ah, il sabotatore, dice lei. Certo, l'espressione di Bersani cerca una rivincita. È lui che. No, è interessante questo. Pubblicità, torniamo. Il telefonino di Cruciani è scottante. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola zanzara. Grillo è un fascista puro. Non è che sia... sull'analisi. Sono anche d'accordo. No, ma voglio dire. Perché è un contenitore di un malcontento. Sì, d'accordo, ma no, se non avete capito cosa intendo dire, non è che sia diverso da quelli che si chiamano Alba Dorata. È una cosa diversa, ma che sia un dittatore, lo prova il fatto che appena uno dice fuori, allora che poi sia un dittatore buono, li abbiamo già avuti. Parenzo, ci sei o no? Come no? Che ha detto che Zanonato... Ancora lì, ancora fermo alla migliore beauty farm, è rimasto lì. Esatto, è rimasto ghiacciato. È rimasto lì. Nano ghiacciato. Esatto. Zanonato sabotatore. Beh, non è male, però, no. Col caso che fa. Si è permessa di dire che Flavio Zanonato è un sabotatore. Beh, certo che è bersaniano, non c'è dubbio. Perché è un sabotatore, sì, scusi, non ha le competenze, non ha le idee che va a dire. No, nel senso dell'aumento... Dell'aumento delle... Parenzo, lascia fine di parlare. Lei pensi che io poi, finita la trasmissione, mando una mail con i disegni, così quello che non ha capito glielo rappresento e ci pensa. Allora, io le volevo dire che Zanonato, non mi sembra sia il ministro dell'economia, no? È andato Santanchè in questi giorni a dire no, non si può congelare l'aumento dell'IVA. È un sabotatore. Lui a Bersani vuole usare lui per picconare questo governo, perché altrimenti non si capirebbe perché deve dire queste cose qua. Beh, perché magari ha fatto dei calcoli, no? dei calcoli ha fatto, perché è la calcolatrice. E che ne so, ha fatto ha chiamato qualcuno. Ma secondo lei, le dico, le persone di buon senso non bisogna essere degli scienziati. Col fatto dei 4 miliardi dell'IMU, sì, e 2 miliardi dell'IVA, perché abbiamo ormai solo più 6 mesi, no? Come impatto, lasciare in tasca degli italiani 6 miliardi di euro, per carità. Ok, però si devono trovare, qualcuno dice che bisogna trovarli questi soldi. Ma scusi, queste coperture qua sono belle chiare, ci sono già. Ma allora perché c'è questa pantomima che va avanti da mesi con qualcuno che dice che aumenterà l'IVA? Cioè il governo sta facendo una figura peggio del governo Monti, perché c'è un'incertezza spaventosa, questo bisognerà ammetterlo o no? Onorevole Santanchè. Ma io dico, questo è un governo che dal 1947 è la più grande maggioranza, deve avere la schiena dritta e sostenuto, perché noi sosterremo, noi non siamo... Però non è che può fare solo quello che dice Berlusconi, sto governo, dice Zanonato. Ma non è che deve fare quello che dice Berlusconi, ma qual è il punto? Se Berlusconi dice delle cose più intelligenti anche oggi sull'Europa rispetto agli altri, è grazie a Dio, io vorrei avere tutti i giorni delle persone intelligenti che mi dicano... Cioè lei dice che le cose più intelligenti le dice Berlusconi? Ma scusi, tasse zero per chi assume i giovani, sarà un problema la disoccupazione giovanile nel nostro paese? Vabbè, questo lo dicono pure quelli del PD, non è che non lo dicono. Beh, allora, ma qua c'è la roba, l'ha detta Berlusconi, tutti che... Sull'Europa, lei pensa che se adesso esce dalla sua radio, o se attraverso la sua radio, lei chiede agli italiani, siete d'accordo o no su quello che ha detto Berlusconi? Ma glielo faccio io il sondaggio. No, ma quello sicuro. Ma perché dice delle cose normali che abbiamo bisogno di fare. Comunque il vero azionista... Non è che il dibattito le ha dette Berlusconi o non le ha dette, chi se ne importa, le ha dette Berlusconi, è quello che mi sembra, rispetto a tanta gente che ha mai lavorato un'ora della vita, Berlusconi ne capirà un po' più l'economia reale, no? Per esempio? Che ne so? Ma per esempio quanti ce n'è lì dentro che ha mai lavorato? Non lo so, io non li conosco, non li frequento. Anche nel PDL? Anche nel PDL? Ma anche nel PDL ce n'è. Cecchito per esempio ha lavorato? Ma che no, guardi, con Cecchito, io so soltanto una cosa, che Cecchito non vuole più tasse. Sì. Capisce? La pensiamo uguale. Cecchito vuole meno tasse come me, non vuole... Vabbè, però adesso non è che deve fare per forza la buona, cioè, non ma mi io non faccio la buona, ma chi se ne frega? Poi è ovvio che in un dibattito sul partito, nel partito... Per esempio Brunetta capogruppo, lei lo riconosce come suo capogruppo Brunetta? Assolutamente sì, io ho un ottimo rapporto con il presidente del gruppo. Guarda, a Brunetta non ho proprio niente da dire. Pare che si comporti malissimo anche con i dipendenti, con le persone, lei è un po' brusco, no? Pare, dicono. Io non lo so, con me di un'educazione senza pari. Sì. Gentilissimo, anche molto galante. Ma per esempio, ogni volta che lo chiamo al telefono mi risponde. E chi è che non risponde, per esempio? Sapesse quante ce n'è che non rispondono. Già per un politico risponde. Guardi, io ho una certezza: che chi risponde sempre al telefono si chiama Berlusconi. Beh, dipende chi chiama. No, guardi, io sono fuori target. Non ho 25 anni, non credo di essere. Cioè Berlusconi risponde sempre al telefono. Lei ha un numero diretto di Berlusconi e parla direttamente con lui. No, io non ho un numero diretto di Berlusconi. Io chiamo dove sta Berlusconi, parlo con la segreteria e dico: buongiorno, sono Daniela Santanchè. Possibile parlare col presidente? Se non può in quel momento il presidente richiama. In questo capisce momento. Questa è una differenza fondamentale. Ma le piacerebbe fare? C'è gente che non sono neanche un'unghia di Berlusconi, non ti rispondono al telefono. Per esempio? Mi faccio un esempio. Ma per esempio, ma lei la pianta con sto per esempio? Vabbè, ho capito. Parla di principi, fate le porte. Di principi. Fatti giornalisti. Tutte e due. Parliamo di principi. E lasciamo, dai. Dice, pronto, buonasera. Eccomi. Sono Daniela Santanchè, volevo parlare con il presidente. No, è un attimo impegnato con la nipote di Mubarak, richiama tra 5 minuti. No, ma lei già con quella voce lì del cavolo è già una voce che perde i punti in partenza. No. E già non è così che si fa. Pronto, poi non è stato educato. Ma... Comunque volevo capire questo. No, le devo spiegare. Guardi, comunque se lei adesso chiamasse che lei Berlusconi, fosse... risponde anche a lei. Scusi un attimo, onorevole Santanchè, ma si può fare il coordinatore del partito e anche il segretario del partito e il ministro degli interni? Insieme. Ma guarda, lui fa il ministro degli interni perché era segretario del partito, se no non l'avrebbe. Ma si può fatto. Fare tutte e due insieme? Si può fare e farà meglio una cosa e magari meno bene un'altra. Però dica, non ma si può c'è fare. C'è una squadra intorno, c'è una squadra forte. Io ma lei le piacerebbe fare il coordinatore del partito o no? O il segretario? Mi piacerebbe fare il coordinatore e segretario, sì. ma non ci ho mai pensato. E la vicepresidente della Camera perché la bloccano? Non si sono ancora messi d'accordo. Chi? Tra di voi? Non tra... No, lì sono sempre tutti accordi, ma non è la battaglia della mia vita. Io sono contenta di fare quello che faccio, sa? Non gliene frega niente, di cariche, cose, ma secondo lei è meglio fare il ministro o fare i ministri? Meglio fare i ministri. Bravo, si è già risposto. Vabbè, ho capito, ma per provare i ministri bisogna fare il presidente del consiglio, però. Oppure decidere dei ministri dall'esterno. Io spero che consigliare. Sia sempre, guarda, le ricordo una cosa. Io sono assolutamente una persona che ha la passione della politica, mi piace lavorare. Ho dimostrato per certi aspetti, per carità, sempre nel mio piccolo, di sapere fare delle cose. I ruoli servono alle persone che non hanno idea, che non hanno forza, che non hanno efficacia. Questo è vero. Che non hanno i ruoli formali, cioè, una medaglietta da mettere al petto. Io, guarda, me ne metto tante di medaglie al petto da sola, che non va bene. Senta, ma il PDL di chi si deve liberare, secondo lei? Perché comunque ha preso una scoppola elettorale, di chi si deve liberare? Ma dobbiamo, guarda, intanto dobbiamo fare, dopo la decisione del Consiglio dei Ministri, grazie a Dio, dico, di togliere i soldi ai partiti, dobbiamo rivedere il nostro modello di organizzazione e poi gente del fare, gente brand del nuovo fare. Un brand ma io nuovo le dico, Forza le Italia conto. Forza le Italia faccio, le posso fare un conto, visto che Parenzo è la calcolatrice. Che conto? Parenzo? Sì. Scriva. Allora, lei faccia un conto. Se oggi un ragazzo di 25 anni decide di fare politica, la politica e i partiti devono avere la certezza che lo manterranno per i prossimi 40 anni. E allora? Allora, io posso portare avanti un discorso del genere? Oggi, che se una persona mi chiede un posto fisso, gli devo dire, ma che mondo vivi? Vabbè, dunque... Allora noi questo professionismo della politica, questo stipendificio della politica, non è più possibile, non si può più fare. Guardi adesso la questione del Movimento 5 Stelle. Vabbè, allora... No, le posso dire questo? Sì. Voi tutti le levate a caso politico, le scissioni, no, veramente... le cacciate, no, tutti, cioè, dico, la stampa... Sì, vabbè, si occupano del Movimento 5 Stelle. Ma guardi, ma non è così... Siccome il Movimento 5 Stelle è cresciuto in maniera esponenziale, sono arrivati in Parlamento la maggioranza inoccupati, disoccupati, gente che con tutto rispetto guadagnava lo stipendio medio degli italiani, 1200 euro. E dunque? Loro si sono fatti il conto, 5 anni, 600.000 euro. Secondo lei quanti italiani in 5 anni guadagnano 600.000 euro? Cioè, secondo lei euro? La maggior parte è di quelli solo che... solo una questione meramente economica, non sono lì per credo, non sono lì che non sanno neanche perché sono capitati, basta vederli, io sono in Parlamento, vedo come si muovono. Come sono? Poi ci sarà qualcuno che sarà anche però bravo. Però la maggior parte come sono? Ma non lo metto in... La maggior parte è gente che le dico, come se io domani mi trovassi sulla Luna. Cosa faccio? Scendo sulla Luna e mi guardo intorno e non capisco, non so che materiale è, dove l'acqua da bere, come si fanno le cose. Allora, io dico... Cioè, sono una questione di quattrini. Ci sono ancora questi qua della sinistra che pensano... Ma guarda che Scilipoti, in confronto a questo, era uno statista. Cioè, dico, proprio del 5 Stelle? Quanto abbiamo durato noi con Scilipoti? Allora, bisogna piantarla di dire che è una questione politica, è una questione economica. Senta, ma secondo il lei... Il giro di giostra è piaciuto, lo vogliono far durare più a lungo possibile. Ma cambiare ma brand... politica sta da altre parti. Cambiare brand lo farete? E Forza Italia... Com'è? Com'è che fa? Sono stonata. Com'è che Luciani, fa? E Forza Italia, e siamo bellissimi... E Forza Italia, e siamo tantissimi. No, no, no, no, no. No, no, no, no. Si sbaglia. Lei è uno dei nostri. Ma com'è? Va Forza bene, Italia, e sale nel pesce. Beh, lei tornerebbe subito, diciamo la verità, eh? Ma guardi. Domani, io... domani. Io tornerei, sa perché? Perché è Forza Italia nel cuore della gente. Beh. E perché il PDL non c'è più. Cioè, nel senso che non il PDL più. Era nato su un progetto politico. Non c'è più. Che oggi c'è Silvio Berlusconi. Tornare a Forza Italia vuol dire essere al centro Silvio Berlusconi. Ma quando si torna? Adesso? Quando si torna? Ah, adesso bisogna vedere un una po' roba di mesi. Cose da fare. Ma guardi, se fosse per me domani. Domani, Così recuperate di nuovo anche Briatore, che si è troppo innamorato di Renzi, ha visto? Ma, guardi, ma lo sente che ha detto di Renzi o no? Ma io Briatore lo sento 2-3 volte al giorno, forse anche 4. Scusi un attimo, signora Santa, che Renzi è uno normale, dice. Poi, quando siamo andati al lancio insieme, non abbiamo parlato solo dei campi di golf, ma anche di come incentivare il turismo. Lui è l'unica speranza vera. Lo vedo come il futuro leader del paese, eccetera, eccetera. Ma è un elogio, un endorsement assoluto. Se vuole lo chiamo in diretta, così gli faccio dire che sono tutte cazzate. Ah, tutte cazzate queste che ha detto Briatore. Ce l'ha fatto... Ma scusi, ma di Renzi, ma io voglio dire, Renzi non è Renzi delle primarie. Renzi ha dimostrato di... Ho capito, avere... ma lo recuperate Briatore o no? Perché mi sembra ormai affascinato da Renzi, innamorato di Renzi. No, guardi... affascinato da me, Briatore. Tra me e Renzi sono certa che Briatore scelga me. Pensi che sono presuntuosa, ma le dico che è così. Lei faccia un atto di fede. Ma Renzo, poi questa gliela spiego. Mando il disegno sempre via mail, finita la trasmissione. Grazie, adesso vi faccio un bignamino. Ma così è un po' congelato, un po' ghiacciato e sottotono. Sottotono. Allora, i messaggini di Parenzo sottotono. Un complesso maschile. Sottotono, guardi. No, è perché... secondo me ha letto i messaggi suoi. No, detto, è perché siamo... mia, non riesco a arrivare a quei livelli. No, è che siamo purtroppo in diretta e non posso infierire perché non è assente, di più di assente, cioè di più, io sono furibondo, furibondo. Secondo me sta leggendo i suoi messaggi. Ma che messaggi? Sta lì alla Rai a cazzeggiare. Madonna, pensa se le leggesse la Boccassini, domani mi trovo Cruciani al Tribunale di Milano. Okay, sono alla Rai grazie ai suoi auspici. Sono arrivato a Rai 3 grazie a lei, signora Santanchè. No, guarda che io ho raccomandazioni, l'ho fatta io la raccomandazione per lei. Ha pensato dove sarei. Ma vorrei mica convincermi che la Rai è venuta a suonare il campanello a casa e gli ha detto scusi, abita qua Parenzo, venga. Penserà mica che ai radioascoltatori che ci stanno ascoltando che pensano che sono venuti a citofonare il campanello a casa. Scusi un attimo, ma Marina Berlusconi può essere una possibilità o no? No. A me piacerebbe molto, ma credo che nella vita sia impegnata molto seriamente a fare però a lei una cosa molto importante. Piacerebbe, ma guarda, a me piacciono le donne. È cazzuta? Nel senso che mi piacerebbe che questo paese investisse nelle donne. È meglio Marina Santanchè o sì, Marina Santanchè. È meglio Daniela Santanchè o Marina Berlusconi? Per la politica. Io devo rispondere Marina Berlusconi. Vabbè, lei deve rispondere Marina Berlusconi. Ma è evidente, ma scusi, perché lei se le facesse, le chiedessi un paragone, è meglio Cruciani ma no, in politica direi Daniela Santanchè. Ma meglio Cruciani o Parenzo? Vabbè, quello non c'è dubbio. Ma l'amore della Minetti, ecco. L'amore della Minetti per Berlusconi è vero o no? Ma guardi, quando si parla di sentimenti è sempre ma no, molto... ma lei non ci può credere che sia vero. Ma sa che io sono una per l'amore. Quando c'è l'amore mi fermo davanti a tutto, cioè, anche davanti a lei. Era veramente innamorata? Ma guarda che secondo me una donna si può innamorare perdutamente di Berlusconi. Ah sì, Beh sì, capisco che lei è maschio e poi grazie a Dio è maschio. A me pare complicato, francamente pare complicato. Io con tutto guardi, il rispetto pare complicato. Le assicuro, pensi che io una volta, sai che cosa ho fatto? Le dico una cosa segreta in assoluto. Sì. Avevo due o tre ragazze, una peraltro, insomma anche una mia parente, che dicevano però Berlusconi, ho detto ragazze voi non conoscete Berlusconi. Facciamo così, capiterà l'occasione che si potrà andare ospiti del presidente Berlusconi. Voi conoscete Berlusconi, ma poi quanti anni torniamo 27, 29, 28, 25 forse una. Parlo di qualche anno fa, 3-4 anni fa. Beh. Allora abbiamo fatto questa cena, conosciuto il presidente, siamo tornati a casa e io l'ho interrogata. Detto, adesso cosa mi dite? Metto una roba pazzesca. Vabbè, si sono innamorate così della... No, ma le voglio dire, ma capisce la grandezza? Come è finita dopo? Com'è ma le voglio dire, una persona, non è che si può scindere una ma l'hanno frequentato dopo, no? Cioè, l'avvocato Agnelli, io le dico, l'avvocato Agnelli era l'avvocato Agnelli, no? E perché, lei non, perché lei non è mai stata attratta da Berlusconi, per esempio? No, ma io ho un rapporto che è diverso col presidente, un rapporto politico, un rapporto di un certo tipo. Poi io, sai, forse è anche un mio limite, ma sono fuori target. Vabbè. Quindi non c'è partita. Ma queste ragazze poi l'hanno frequentato, queste ragazze che ha presentato Berlusconi? No, l'hanno frequentato, però tutte e tre le si innamorano. Dico che sono appena una ragazza, appena una donna vede Berlusconi si innamora. Non comunque, dico innamorate. Si imbaghisce. Ma è un uomo talmente interessante, talmente piacevole, guarda, c'è una qua, quando hai conosciuto Berlusconi, cosa hai pensato? Dopo... Sì, effettivamente ti stupisce. Effettivamente ti stupisce, vabbè. A prescindere da anche eventuali pregiudizi, l'impressione è che comunque tu percepisci in quest'uomo una grandezza che è fuori dal comune. Ma uno si può, ma uno si può innamorare. Quanti anni ha questa ragazza con cui sta parlando? Quanti anni hai? 29. Ma 29. Lei si potrebbe innamorare di Berlusconi? Ti potresti innamorare di Berlusconi? Sì o no? Non lo sa. Non lo sa. Vabbè, non lo resteremo sa. Ma noi siamo ancora quelle che quando si parla di amore si arrossiscono. L'amore è una cosa intima, voi sbandierate tutto in piazza. Noi tutto in piazza, mettiamo tutto in piazza noi, tutto per in piazza. Per noi di Cuneo l'amore è una cosa seria, intimo. Intimo. No? Vabbè, un abbraccio, a presto. A presto, arrivederci. Saluti il nano Parenzo, è congelato. È ghiacciato. Lo mette dentro un tè caldo, così si toglie. È ghiacciato, a presto. Aspetti. Che c'è? No, volevo chiedere questo in chiusura. Che cosa? Una cosa tenerissima. Ma lei ha mai scritto bacini Sandrino? A Sallusti, ma io ho fatto molto di più. Cioè, per esempio, ma cos'è questa roba? La cosa più tenera che ha fatto a Sallusti, ma cos'è? Ma la cosa più tenera, avergli fatto un maglione con le mie mani, sferruzzando con i miei ferri. Un maglione. Ma sai quanti punti sono? Quante ore di lavoro sono? Ma quella a collo alto? Ma ho fatto a collo alto, le ho fatto a girocollo, scollate a V. Ma io guarda che faccio dei golf di lana, ma per Cruciani, ma boh, potrei farlo di più per il nano, perché con Parenzo ci metto di meno, mi costa meno la lana, lei è proprio forte. Pubblicità, grazie. Arrivederci. Ciao. Parenzo, lascia finire di parlare, lei pensi che io poi finita la trasmissione mando una mail con i disegni, così quello che non ha capito glielo rappresento e ci penso. La zanza. Siamo qui, Franco da Latina, buonasera Franco. Buonasera, Giuseppe. Dimmi. Giuseppe, prima di tutto ti devo dire una cosa. Aspetta, Franco, che c'hai? Il viva voce? Devo aspettare, è una vita che sto aspettando. Aspetta, Franco, hai il viva voce? Aspetta. Hai il viva voce, che c'hai? Sì. E allora mettiti bene con sta cornetta, dai, forza. Vabbè, che mi guarda il tumore nel culo. No, aspetta. Io sono un zappatore, ricordalo, prima di tutto. Non ho capito, aspetta. Zappatori. Aspetta, hai capito, caro Giuseppe? Perché c'hai più calli tu sul culo che io sulle mani. No, capito, caro Giuseppe? Aspetta un attimo, Franco, che non capisco. Ma non aspetto un cazzo. No, aspetta che non capisco. Ti mando una raffa nel culo, no. Perché tu non sei nessuno. Vieni con me a stappare, hai capito? E poi ti faccio, che cazzo significa? No, ma stai tranquillo, ma che è successo? Ma perché è successo, Franco? Che è successo? Parla, se c'hai coraggio, parla. La tanta anche. Franco, stai tranquillo. Ho fatto lavoro da 7 anni. Ma devi stare tranquillo, calmo. Stai zitto, io mangio i cazzoletti, mangio. Parla di questo nell'Italia. Hai capito, stronzo di merda. Se mangi nei cassonetti, abbassa questo signore un attimo. Franco, se mangi nei cassonetti, la colpa non è mia. Se mangi nei cassonetti, mi dispiace, ma la colpa non è del sottoscritto, hai capito? Ma devi stare calmo. Devi stare tranquillo, altrimenti chiamo tre. Ma ti faccio portare via, ti faccio portare via. Vieni qua. Ma vengo, stai tranquillo, ma vengo dove? Vengo dove? Alla fine, ma a che fare? Ma a che fare? Cosa? Ma stai tranquillo, stai. Vabbè, Davide da Rimini è incontrollabile. Davide da Rimini. Buonasera. Io Crociani chiamavo in merito della terminologia nero-negro sul dibattito. Sì. Beh, io sono convinto che lei non è razzista, Crociani, però secondo me la parola negro ha un significato. Ma io non la uso, ho detto, storico. Non la uso, dipende. Ma dipende questo. Come uno la usa, se dice sporco negro oppure se dice a negro, così no. È chiaro che vuole offendere una persona. Comunque, guardi, a me mi farebbe ridere se qualcuno pensa magari di introdurre una legge per portare in tribunale chi usa la parola negro, per esempio, no? Cioè. No, però è anche questione di buon senso, come capisce lei. Cioè, la parola negro la possono usare solo gli spagnoli perché vuol dire nero. E il significato della parola ha un significato storico. Vabbè, non restiamo su questa roba qua, Davide, abbiamo capito. So, però ci sono stati tanti morti su queste cose qui negli Stati Uniti. Ma che tanti morti? Adesso non è che la parola negro. Sì. No, ma è vero, questo e altri diritti, però sono state fatte tante battaglie. Guardi, c'è un DJ negli Stati Uniti che un paio d'anni fa disse una roba tipo su una giocatrice di basket, la chiamò Nappy Ho, che non ha niente a vedere, però sì. La parola Nappy è, diciamo, i classici capelli degli afroamericani che non Vabbè, sono Davide, non faccia, il saputello, no, adesso. No, ma non è che voglio assolutamente, no, per cui, guarda, io la chiamo anche perché sono sono direttamente interessato. Io ho due figli mulatti, quindi problemi di razziali li vivo e cerco di viverli nel modo migliore, però cioè dire così va bene chiamare negro le persone. Io non ho detto che va bene, ho detto semplicemente che chi utilizza questa parola senza essere offensivo non deve essere tacciato da razzista. Ma c'è ancora il matto? Il matto sarai tu. Devi stare tranquillo, Franco. Se stai tranquillo, ti faccio parlare. Tu sarai matto. Allora, offendi la gente solo da lontano. Tu sarai matto. No, devi stare tranquillo. Una persona arrabbiata, non sono matto. E allora, se sei arrabbiato e non sei matto, comportati da arrabbiato e non da matto. Comportati da arrabbiato. Ti lecco il culo. No, ma non devi leccare il culo a nessuno. Devi stare tranquillo, devi parlare. Allora che cosa vuoi? A te ti piace la Santa Che? Ma che ne sai? Ma che a me non piace nessuno, Franco. Dimmi che cosa. Tu sei un privilegiato. E allora? Sono contento per te. E allora? Io sono un profugo della Libia. Sono nato a Libia. Io, capito? Ma a me che me ne frega? A me che me ne frega se sei un profugo della Libia? No, siccome tu stai dicendo neri, quello, ma non cambiare argomento, Franco. Che cosa hai chiamato a fare? Perché tu, cioè, dai solo la voce, no? Ai politici. Ma quando mai stai parlando persino tu? Non dici mai, ci sono i disoccupati. Io sai dove la mangiare, caro Giuseppe, io ti chiamo Giuseppe perché io ho 64 anni, no? Sì. Sono più grande di te. Posso permettermi di chiamare Giuseppe? Sì, ma poi puoi chiamarmi come vuoi. Mi hai la migliore, ho avuto lavoro, ho perso lavoro, vado a mangiare i cazzoletti e tu sai che cazzo fai, ci lecchi la figlia. Stai tranquillo, devi stare tranquillo. Chiama l'ambulanza, dai. Ma guarda, l'ambulanza la devi chiamare per te, la devi chiamare. Ma dove sei? Dove ti trovi? Dammi un indirizzo che ne mando due, dai. Non bastano due. Devi essere sedato stasera. Sedato stasera. Così vieni con me i cassonetti, poi. Ma io non ci vengo nei cassonetti, ci vai tu nei cassonetti, io non ci vado nei cassonetti. Ma tu guadagni soldi. E allora qual è il problema? Hai problemi? Io ho tanti problemi. Mi dispiace, ma non è colpa mia, capito? È inutile che te la prendi con me. Ma fino a un certo punto cosa? È colpa tua. Prenditela con Parenzo. Parenzo a me non me ne frega un cazzo, anzi, a me piace pure Parenzo. Perché Parenzo non dice la verità. Preoccupati, Parenzo. No, guarda che infatti io non do ragione a quello signore, ma dico che questo livello di disagio e di disperazione va ascoltato. E va ascoltato con rispetto invece. Io ho perso la famiglia perché ho perso il lavoro, ho perso tutto. Capito? Ma dove vivi adesso? Franco, dove vivi adesso? Io sto in una casa popolare, io c'ho lo sfratto, capito? Stai in una casa popolare. Sì, ma adesso mi sfratto perché non pago. E non paghi perché non paghi? Perché non faccio lavoro da 7 anni perché non pago. E da 7 anni come campi? Come vivi da 7 anni? Faccio il giardiniere, faccio le ore così. Allora, lavori? Faccio i giardini 2-3 ore. Me le mangio quei soldi, come faccio a pagare? Come fai a mangiarteli? Ma se pago l'affitto, le bollette, io sono senza quello. Come faccio a mangiare? O pago le bollette o mangio? Che cazzo devo fare, Giuseppe? Non ho capito, Ma Franco, ma perché te la prendi con me? Non ho capito. Perché tu dai la voce a gente che non dice, la Santa Che non parla del disagio sociale. Lei sa che parla. Ma a me non me ne frega niente, del disagio sociale. Non hai capito ancora, Franco? A me del disagio sociale non me ne frega niente. Parli tu del disagio sociale, non la Santa Che. Noi dovremmo dare voce a queste storie invece. Non so che non te ne frega niente, Giuseppe. Però non è che non me ne frega niente, se tu mi chiami e mi vuoi raccontare come stai, io ti ascolto, ma se cominci a insultare, a dire delle cose. Ma lei, porco Dio, ragazzi. No, non devi bestemmiare. Ma cosa devo fare? Non devi bestemmiare. Non c'ho la coletta. Sono messo. Piangi, non bestemmiare, piangi. I figli non vengono più perché. Ma dove non vengono più i figli? Da me non vengono più. Perché non vengono più? Perché perché non ce la volesse, a mezzo a mezzo. Ma quanti anni hanno i figli? Una ha 34, una 37 anni. E che grazie fanno? A Dio, grazie a Dio sono riuscito prima, quando c'ho il lavoro, a sposare. No, no, bello. Ma perché piange adesso? Poveretto, perché la gente che sta perché c'è un cazzo. Scusi un attimo, ma però mi dia qualcosa su cui lanciare un appello per aiutarla. Franco, mi dica che cosa fa. Io lavoravo in vivaio che ha fallito. Io ho sempre 35 anni, ho fatto già di. Non mi ha pagato la vita. Scusi, però, però come fa? Per esempio, lei adesso ha un telefonino in mano, no? C'ho 5 euro, ecco. Ma ho chiamato perché non si paga, se no. Cioè, lei ha un telefonino, ha caricato 5 euro? Ma c'è un telefonino che costa 30 euro. Perché mi devono chiamare quelli che vanno a farsi i lavoretti, capito? I giardini, vado a tagliare i fiori. Vabbè. Ho la borsa, fermo lì, ho la borsa. Franco! Franco! Oh, ti sei ripreso, Franco? Ciao, ci sei. Ti sei ripreso o no? Io sto mezzo a mezzo, ci sei. Franco il giardiniere, hai finito di piangere o no? Io piango sempre. Perché piangi sempre? Perché da quando ho perso lavoro non c'è più vita per me. Mi voglio buttare, però. Dove? Da dove ti vuoi buttare? Io sto a quarto piano, mi butto, vaffanculo. Ma non ti buttare, dai. Ma che faccio, Giuseppe? Con Dio nella vita. No, non devi bestemmiare. Vittorio, no? Franco, scusa, un po' di. La vita, ma non devi bestemmiare, se no non ti posso mandare in onda se continui. Non posso mozzicare la vita sempre, non mi aiuto, non ce la faccio, sono senza corrente. Se ma guarda, fare... guarda, mettiti là, guarda fuori, non ti puoi buttare. Cosa fai se ti butti? Cosa risolvi se ti butti? Cosa risolvi se ti butti? No, io penso a mia madre che è morta quando stavo a Tripoli. Mi aiuta lei. E poi. Ma che ti aiuta lei? Che fai, provochi altro dolore se ti ammazzi? Non me ne frega niente. Come non te ne frega niente? I tuoi figli non vengono più a trovarti? No. Perché non vengono quei due deficienti? Perché? Sono due femmine. E perché non vengono quelle due? Perché? Perché si vergognano che vado ai cassonetti. Sì. Ho capito, ma facciamo un appello alle figlie di Franco, andatelo a trovare, cercate di risollevarlo. No, che mestiere fanno queste due? Non ti possono aiutare? Ma come no, stanno bene. E perché non ti aiutano? Perché si vergognano. Ma di cosa? Che fai il giardiniere? Che stai messo come sei messo? Di cosa? Che vado a mangiare la casa, perché vado a prendere da mangiare. Ho capito, ma perché non vai a mangiare da loro allora? Perché una è accompagnata, non mi voglio. Io non voglio dipendere, cioè io voglio morire, non voglio dipendere. No, Franco, ascolta un attimo. Franco? Parenzo. No, mi ascolti Giuseppe. Adesso perché sennò diventa veramente drammatica sta roba. Franco, mi ascolti adesso. Allora, facciamo un grande appello. Che fai? No, aspetta, Franco, aspetta. Io Franco. Posso dare il nome mio? Sì. Adesso facciamo un appello agli imprenditori che sono all'ascolto. E io sono convinto che qualcuno. Ma portalo da te alla Rai, sai, venerdì, no? Portalo. Io sono convinto. Fai qualcosa di utile nella vita. Che qualcuno che ascolta la trasmissione ci telefona e ti propone un lavoro. Io sono 35 anni, faccio già dire, c'ho il diploma di florovivaista. Ma quanto guadagni al mese? Quanto guadagni? Ma che guadagni al mese? Io vado a lavorare 20 euro un giorno sì e due no. E devo mangiare, come cazzo faccio a pagare le bollette? Come? Io taglio le siepi, faccio quando mi chiamano e questo faccio. Che cazzo devo fare? No, io sono senza, se rotta la serratura, ho messo un cacciavite alla porta perché non ce l'ho i soldi per pagare. Io vado in bicicletta perché mi hanno sequestrato la macchina. Guardi. Io vado in bicicletta. Io non piango su di me. E su chi piangi? Perché ti incazzi con me allora? Perché tu c'hai soldi, porco Dio! No, fermo! Perché? Perché tu c'hai soldi, io no? Ma ho capito, che vuol dire perché io c'ho i soldi e tu no? Ma che discorso è? Perché io stavo un mese, io lavoravo, stavo un mese, perché adesso sto così, porca miseria. Ecco, appunto, stai calmo, vabbè, lascia il tuo nome, dai, lascia il tuo nome, lascia. Ciao Franco, Franco, ciao, non ciao, fare cazzate, non fare cazzate. No, no, adesso guarda, non ce la faccio. Non fare cazzate. Io ho 64, sai quando vado in pensione, Giuseppe? Io ho 25 anni di contributi, vado in pensione a 66 anni, ma ci arrivo a 66 anni e mangiare, ma come cazzo fa? Cioè, a 600 euro al mese, ma come faccio? Dimmi tu come faccio, io sai come faccio la notte, Giuseppe? Come? Sai come faccio? C'ho il telefonino che c'ha una fidetta, una lucetta. Cioè con quella, perché c'è, non c'è la luce? No, l'hanno staccata. L'hanno staccata. Vabbè. Sì. Ciao Franco. Vittorio! Eccolo! Ecco qui, ecco qui. Certo che passare da questo signore, da questa testimonianza, Sgarbi. Guarda. Ma perché? Che c'ha adesso? Che c'ha? Che c'hai con Sgarbi? Ma che no, c'ha? Io voglio bene a Vittorio, questa persona va aiutata assolutamente. Vabbè, l'aiuteremo, che ti devo dire? Beh, tanto si vuole la coincidenza che il inutilmente parlante non sa che sabato scorso si è suicidato un ragazzo di 30 anni vicino a Rho. Lo so. E il suo corpo nel Po è stato recuperato da me, il quale come evidentemente no? Me lo ricordo, sì, l'ho letto. E ovviamente la pietà che voi provate, io l'ho vista a conti fatti, quindi non eviterei le battute di quel deficiente che non sa quello che dice mai, no, e di cui non si capisce cosa vuol dire passare a Sgarbi. Sgarbi oggi, questa mattina, ha bloccato, visto che tu non sai di cosa parli, ed è un fatto politico, una devastazione di una piazza storica alla Spezia, con tutta la città. Ah, sei andato? Sei andato stamattina? No, il ministro, no, non sono andato, ho chiamato il ministro. Sì. Il quale ha valutato la cosa, il sindaco è del PD e lui è del PD, il sindaco l'ho anche insultato, ma abbiamo evitato la spesa con l'abbattimento di alberi che non interesseranno al Parenzo, ma non sono abbattuti, per trasformare una piazza storica in un monumento a tale Buren, artista francese, degli archi di cemento armato colorati. Va bene. Allora, questo è quello che ho fatto, ed ecco di cosa entrano i tombini e le foglie. Qua alle rotatorie, le rotatorie costano ognuna 2 milioni di euro. E oggi vengo da un convento a Dalbino, vicino, che è in abbandono, un convento del 400, mi buttano i soldi per fare rotatorie. Nei luoghi del terremoto le chiese non sono state messe in sicurezza, ma hanno fatto rotatorie. I soldi per le sale eoliche con gli incentivi europei hanno portato un mafioso, l'ha detto perfino Grillo commentando quello che ha visto in Sicilia, a prendere solo per sé 1.400.000.000 di euro per far fare paleoliche e distruggere il paesaggio. Se non è un tema politico questo, non so quale sia, si chiama ambiente, si chiama ecologia. Parenzo, perché criticavi? Perché si chiama difesa del territorio? Se tu metti le paleole sul Conero, nessuno va più sul Conero. Se le metti nel culo di Parenzo, non capita niente di male. Chiaro? Il partito di Vendola si chiama ecologia, ambiente, non so che cosa. Lui ha montato 1.600 pale eoliche con la sua autorizzazione in Puglia. Nella cattedrale di Troia, che tu non conosci, ci sono intorno alla cattedrale 150 pale che distruggono il paesaggio per sempre. Di cosa mi devo occupare? Le pale di giustizia, perché i magistrati si occupano di mafia, ma non hanno visto la mafia quando io la indicavo nelle pale eoliche. Le pale eoliche di Vendola, va bene. Hanno sciolto il comune mio e non quello di Alcamo, dove c'era un signore che prendeva 1.400.000.000 di euro per le pale eoliche. Lì è la mafia. Parenzo, perché non si deve occupare? No, perché dire, non si deve occupare? Non si deve occupare dei magistrati. Ingroia ha tradito il suo mandato. Perché non si è occupato di salvare la Sicilia dal settore del paesaggio, dalle paleoliche, allora, ma di inseguire Mancino. E devi sapere cosa significa Mancino, che cazzo ha fatto Mancino. Allora, che devo dire la verità. Allora, c'è Vittorio. Non hai mai visto che è una capra. Vittorio, scusa un attimo, però c'è una persona che certamente non è una persona di destra, anche se poi a me danno fastidio queste definizioni, Dario Vergassolo, che è della Spezia, e che ci mi ha mandato un messaggio e ha detto: grande Sgarbi, a Spezia è stato grande. Guarda un po', guarda come mai lo ha fatto. E oggi, lì dove io avevo ottenuto, dopo un anno di loro battaglie senza risultato, il fatto che il ministro facesse dire di no all'orrore, c'erano i manifestanti con i miei manifestini. Grillo, una cosa così, non l'ha mai fatta in nessun momento. Non ha salvato neanche la Spezia, lui che è genovese. Chiaro? No, perché se ne Grillo, fotte, perché se ne fotte. Grillo. Ma chi se ne frega di Grillo? Perché se ne fotte, no, Parenzo. Ma di Grillo me ne frego io di Grillo. Perché non usa l'intelligenza, come questo coglione qui. Dove sono andate? Anch'io da un'altra parte. Perché lei è un cretino. Chi è? Chi è? Chi è? Un mio autista, un coglione come Parenzo. Un altro fesso che non sa perdere due ragazze bellissime. Io ho un coglione. Come ha perso due ragazze? Come Parenzo, non capisce, non sanno capire. L'ho detto di guardare. Non guarda perché non hai il cervello, che è come di tanti. Allora, in tutta la sua attività, da quando hanno vinto le elezioni, o parzialmente vinto, si è occupato di rimborsi elettorali. Ma perché non, poi arriva in Sicilia e dice: ma hai ragione Sgarbi, le paleoliche rovinano tutte. Celentano ha scritto a me, caro Parenzo, per dire: per fortuna c'è qualcuno che difende il paesaggio, altro che le foglie e i tombini. Allora devi spiegarmi una cosa. Però l'hai preso per il culo, Parenzo, tu prima l'hai preso per il culo. Ho sentito. Le foglie, i tombini, le paleoliche rotatorie sono soldi buttati nell'Europa. Soldi buttati. Parenzo, allora come rispondi a questa cosa? Va bene, adesso scusami un secondo. In Spagna sono degli idioti perché hanno le paleoliche? Allora spiegami tu. Non è l'Italia, la Spagna, sono dei ladri, mafiosi e ladri. Coglione! Ma dove le metti le paleoliche? Le paleoliche? Le metti in Sicilia dove c'è la Francia e in Puglia dove c'è la Catalogna Unita, coglione, cosa c'entra la Spagna? Vai a leggere quello che ha scritto Der Spiegel, vai a leggere quello che ha detto Rubbia, ignorante! Le paleoliche sfida le paleoliche! La mafia! Allora, tu però l'hai preso, un attimo Vittorio, tu però Parenzo, l'hai preso per il culo perché hai detto perché si occupa di rotatorie quando si occupa dei tombini? Perché le rotatorie, come le paleoliche, sono modi per buttare i soldi degli incentivi europei che lo Stato italiano, incapace di salvare i monumenti, butta in queste stronzate. Quindi la politica, non c'è mai stata battaglia più politica di questa, la mafia era nell'eolico in Sicilia, vai a studiare! Ma la mafia è in tutto ciò dove sente odore d'affari, no? Siano esse le paleoliche. Ma c'è la Spagna, ci sono le mafie anche in Spagna, non che ci sono in Italia, no? No, no, però voglio dire, perché lo prendevi per il culo che non si può occupare di rotatorie, no? Tanto cretino. Parenzo, perché non si... Ironizzavo. No, non conosceva la cosa di sta Spezia Vergasso, non conosceva il tema delle rotatorie. Era un tema rotatorie. Che io ho portato la battaglia per contrastare la Spezia, l'inutile spesa, invece di spendere... Vittorio, ti piglia per il culo... La battaglia delle rotatorie. Una nuova... Ti piglia per il culo, ti piglia per il culo, continua a prenderti per il culo perché ti occupi di rotatorie. Ma no, ma dico va bene, le rotatorie, benissimo. Le rotatorie, di paleoliche, di piazze sfigurate, di luoghi d'Italia, sono qua in questo momento a Bergamo, con un orrore di albergo, che uno si chiede come lo possono costruire, nell'Italia che era bella. Come si chiama? Come si chiama sto albergo? Come no, si vabbè, un albergaccio che hai fatto con i piedi. Ma è tutto così l'Italia, no? Perché è stata fatta da zucche vuote. In compenso... Senti, ma... No, ma questo è bellissimo, caro Parenzo, il museo ebraico a Ferrara sono stato io. Senti, caro ma... Parenzo, se vai a vedere quello che io ho fatto quando ho avuto qualche funzione come assessore a Milano, le cose le ho fatte e strafatte. Scusa, ma la Chienghe... Non ho mai perso tempo a guardare le storie dei rimborsi o delle mezze come te, che eri tu quello che ci invitava a cena e poi non pagavi i ristoranti. Quello sei tu, adatto per Grillo. Va bene, Vittorio, ti devo lasciare, grazie, ciao, traffico. Lucio da Venezia, buonasera Lucio. Buonasera. Prego. Ma dicevo, se questo signore vuole venire a Venezia, gli diamo da dormire, mangiare e lavoro. Lei che fa di mestiere, Lucio? Ma è necessario? Beh, almeno così, in linea di ma così. Per sommi capi, senza entrare nello specifico, poi magari via mail, eccetera, però qui siamo trasparenti, insomma. Lei che fa? L'imprenditore, che fa? Certo. È un imprenditore di Venezia che vuole offrire un lavoro al signor Franco che ha sentito prima. Sì. È così? Se non è... Sì, deve essere seria la cosa. No, beh, ma anche secondo me deve essere seria, certo, Lucio. Ci risentiamo domani, così prendiamo contatti anche col signor Franco, va bene? Eventualmente, mi accerto io della cosa, va bene? Lucio? Bene. Grazie. Okay. Grazie, prego, grazie. Alessandro, prego. Da Verona, buonasera. Allora, mi ha scritto anche un altro imprenditore da Milano, che vuole ovviamente offrire sostegno e anche lavoro a Franco. Questo è bello, vedi? È con noi. Questo bisogna raccontare, bisogna risolvere questi casi. Ma li risolvi tu questi casi? Mi è capitato, no, per caso. Questo va fatto, basta, è passata l'epoca di quello che chiama e scoreggia, quello che insulta. Ora bisogna solo dare una mano e darsi una mano e aiutare questo, sì, paese. Sì, sicuramente. Alessandro da Verona, questo va dica fatto. Dica. Buonasera, Cruciani. Allora? Io volevo mettere in relazione un po' quello che sta succedendo in Lega, no? Quindi dove? Scusi? Nella Lega? Sì, nella Lega, sì. Sì, no, nella Lega, quella cosa strana, no? No, dico in questo momento che è un po' farsesca, no, la cosa che allora sta succedendo. No, la cosa che non giunge a livello di informazione nazionale è che la Regione Veneto ha già approvato la risoluzione 44. Sì, vabbè, guardi, non mi parli però delle risoluzioni, le cose, sennò diventa vado ai matti. Lo sa bene Parenzo perché è Veneto, no, ma non ne parla. Per fare un referendum nel Veneto che chiede ai veneti se vogliono costituirsi in Repubblica Indipendente. Vabbè, allora? No, chiedo magari voi perché non passa questa notizia. Perché è una puttanata, per fortuna. No, ma ce n'è anche un'altra, cioè Valdegamberi, che è dell'UDC, in Regione Veneto, sì, ha depositato un PDR, un progetto di legge, per indire un referendum consultivo che molto probabilmente si terrà. Va bene. Dunque? Ma perché la informazione nazionale non ne parla? È perché non gliene frega niente a nessuno. Giuseppe da Roma, buonasera. Giorgio, Giorgio Grasso? Sono qua, ciao. Eccoci, Parenzo, guarda chi t'ho scovato, Giorgio. Ecco, mancava solo il signor Giorgio Grasso. Sì, no, no, perché è il suo Giuseppe? Oggi Parenzo ha fatto il Guinness dei primati oggi. Cioè? Una. Cioè, dimmi. A parte le rotatorie dove Sgarbi è stato chiarissimo, sì, lo volevo fare io, ma è stato bravissimo Sgarbi a spiegare le cose. Poi? Come si butta via i soldi. Ma ti pare normale? Non ne ha azzeccata una. Grillo. Ma ti pare normale che difenda un senatore, una senatrice che è in modo illegittimo in Parlamento, che non ha preso un voto? Ma in che senso illegittimo? Perché la gente ha votato Grillo, che è un Vabbè, quello pure vale Nessuno pure per Berlusconi. Nessuno ha votato quella lì. Ma cosa Nessuno dici? L'ha voluto in Parlamento. Ma non rappresenta nessuno. Ma e si permette di dicendo? Criticare quello grazie a cui finite in Parlamento. Questo che dico io. Quindi cioè, non ha diritto di parlare. Ha ragione Grillo quando dice se non è d'accordo con me va via. I voti li ha presi Grillo. Come le PDL, i voti li ha presi Berlusconi. Ma ti pare normale che uno del PDL a un certo punto dice no, Berlusconi sbaglia, per colpa sua abbiamo perso i voti, vai via. Questa è la prima cosa, la seconda? Sono i due partiti personalizzati, Grillo e PDL. Quindi non puoi non essere d'accordo, sono loro che prendono i voti. Nessuno di quelli in Parlamento, né PDL e nel partito di Grillo ha poi preso voti. Poi? Sono loro. Poi quattro ne ha sbagliate, 4 su 4, questa era sbagliata la grande. Lo Ius Soli, ma è ovvio che l'Italia per così come composta, se avesse una legge come lo Ius Soli, vengono apposta a partorire. Ma non solo dall'Africa, ma anche dagli altri paesi dell'est, dell'ex Jugoslavia, ma è normale. Parenzo, hai capito o no? Non è arrivato il tuttologo, è arrivato il tuttologo. Aspetta, andiamo avanti che non è finita. Sulle rotatorie è arrivato il tuttologo. Ma anche su Zanonato, Parenzo. Ma ti pare normale che Berlusconi prendi i voti dicendo che non farà aumentare l'IVA, che toglie l'IMU e questo ministro va alle conferenze e dice dobbiamo per forza aumentare l'IVA. Ma non ha senso. Ma no? Guarda che non dici, ancora una volta hai perso un'occasione per star zitto ancora una volta. Ma no, Davide, non ne hai azzeccata una oggi. Siccome hai perso un'occasione per star zitto anche questa volta. Di solito uno, quando esprime quattro concetti, almeno uno è giusto. Stavolta non ne hai azzeccato neanche uno. Parenzo. Mi diverte che tu ti metta il soccorso di Grillo e a difendere. Ma non mi metto il soccorso di Grillo, non so mica come Luciani che l'ha votato. Ovviamente io non sopporto Grillo e non sopporto quel modo di far politica. Però Grillo ha ragione quando dice che i voti sono suoi, ha preso il 20%, il 25%, sono 27%, del movimento, tutti ha votato Grillo. Questa non ha diritto di parlare. Ha ragione Grasso. Non rappresenta nessuno, non rappresenta nessuno questa. Ha ragione Grasso, non rappresenta nessuno. Ma neanche la sua linea, famiglia rappresenta. E adesso è diventato un leader politico perché attacca Grillo. Invece di ringraziargli il fatto che sta in Parlamento grazie a lui, non la conosceva nessuno. Io vorrei sapere, Parenzo la conosceva prima, no? No, nessuno la conosce. Ma non è nessuno questo, la conosceva. Ma non è questo, diciamo, a un esperto l'hai paragonata a Giovanni Dalla Torre. L'hai paragonata a Giovanni... non lo sa nessuno. L'hai paragonata a Giovanna d'Arco, vergognati. Portando democrazia dentro ma un movimento totalitario. Ci sentiamo domani 18:30, grazie Giorgio. Se potessimo pubblicare i messaggini suoi, quanto mi piacerebbe. Quanto mi piacerebbe prendere il telefonino di Cruciani e tac, in televisione una bella puntata. Meraviglioso, il telefonino di Cruciani è scottante. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Vergogna, vergogna, vergogna, vergogna. Radio 24, la passione si sente. Finmeccanica vi ha presentato La Zanzara.